Ah, ecco. Allora, a proposito di pubblico, io vorrei iniziare con un disclaimer, come certo. Sulle piattaforme Netflix. Quindi io vorrei avvisare che certo. Questa trasmissione, trigger warning. Questa trasmissione può includere discorsi su violenza, discorsi su nudità, su uso di alcol, stupefacenti, scene con fumatori, linguaggio volgare, contenuto sessuale, rappresentazioni obsolete oppure negative e offese di animali, persone, culture ed esaltazione sincera delle neurodivergenze, scorrettezze retoriche di ogni tipo, luci stroboscopiche. E a tal proposito invitiamo il pubblico a scriverci al numero, Stefano, dillo tu, 333 180 94 94. Ma cosa ci devono scrivere? Ciò che a proposito di quello che ci hai appena detto, tutto ciò che riguarda le scorrettezze di qualsiasi forma. Sì. Tutto ciò che può essere triggerante. Sì. Giusto? Cos'è che vi dà, che vi limita nella vostra capacità di espressione? Visto che oggi cercheremo di parlare di comunicazione, ecco, quando è che non vi sentite liberi di comunicare quello che avete dentro, nei limiti della legalità, ovviamente. Ma quindi sei tu che fai l'intervista a noi? Sì, infatti. Voi andate piano. Noi andiamo piano. Dai, Bisogna andare più veloce. I'm watching the same two outfits for 3 years now. Waiting for some kind of inspiration to make me feel like I'm my own person. But buying new clothes just makes me feel down. Having new style would cause me more attention. And I don't feel like I'm my own person. Seems to make things happen. I try too hard, guess I gotta keep searching. Can't help but think I just stand out. No matter what I do, it's bad, it's hurting. And I don't feel like I'm my own person. I just feel like some other version of some effort in, and it'd be nice if I wasn't filled with doubt. Oh, I can't help but feel I got some kind of curse, and I don't feel like I'm my own person. I just feel like some other version of me. I wanna blend into the background. I wanna be nobody and never make già annoiando da solo. È che nel frattempo, siccome siamo in ritardo, anzi mi volevo scusare con Fabiano perché l'abbiamo fatto aspettare ben 7 minuti davanti al Mambo, perché di solito io sono abbastanza preciso, però stasera era difficile la faccenda. Pioveva stasera? Un po' sì, un po'. però questo, guarda, volevo mettere questo. Wow, eh? Wow, wow, cioè, wow. Perché, excitement unlocked. Wow, wow, wow, holy shit that rock. No, perché voglio dire, un personaggio come Fabiano non è che arriva tutti i giorni a Coxo Spaziale, anzi. No, si merita appunto, il wow. Si merita un wow, perché raccontaci chi sei e perché. E perché sei? E perché sei qua? Ah, perché sono qua, non lo so. In effetti non lo so neanch'io, cioè io... No, posso raccontare questa cosa? Abbiamo fatto una serie di tesi insieme e siccome tu sei uno showman, ho detto, cioè, non puoi non venire a Coxo Spaziale a fare lo showman come hai fatto da presidente di commissione alle tesi dell'Accademia di Belle Arti, perché condividiamo questo fantastico mestiere. Ma in cosa avete ravvisato questo comportamento da showman durante le tesi? Nel tuo modo di dire nel nome della Repubblica Italiana ti... No, com'era? Com'è la cosa? Non mi ricordo neanche più com'era la formula delle tesi. Com'è la formula delle tesi? Nel nome della Repubblica Italiana per i poteri conferiti dalla legge dichiaro che oggi che Yao Li è stata insignita col diploma superiore accademico d'onore in fashion design con il voto di 280 estralode. Estralode. Sì. E bacio accademico. Vabbè, il bacio accademico, cioè, non si usa più. No, si usa come si usa. Cioè, voglio dire, io in realtà faccio il prof dell'accademia solo per il bacio accademico da conferire ai 110 lode. Sento un rumore di elicottero ma non capisco perché. No, sì. Potrebbe essere questo? Esatto. Grazie. Era quello. Ecco perché. No, perché in realtà il motivo per cui sentivo questo rumore di elicottero era perché ci mancava il contributo di Marco Roma. Certo. Marco Roma. Welcome. Marco Roma, abbiamo dei secondi di silenzio. E dove è andato? Non lo trovo più. Non c'è. Marco? Marco, dove sei finito? Ritentiamo, forse saremo più fortunati. Dove è finito Marco? Ditemi, se no io riempio i buchi e intrattengo. Nel frattempo... Ecco. Io avrei una risposta per la domanda di prima, una risposta seriosa. Ripeti la domanda, ecco. Così la risposta la si aggancia. La domanda era cosa fa, cosa crea problemi nella comunicazione. Ah. E io appunto risponderei la mancanza di un'apertura comunicativa dell'interlocutore. Quanta roba! E come fai a pretenderla? Bella questa domanda. La desidero, non la pretendo. Ecco, però occorrono due desideri per far accadere le cose. Uno solo non basta. Okay. È come nell'amore. Un desiderio solo non basta, ce ne vogliono due. Quindi desidero altrimenti è stupro. Comunicativa. Ah, giusto. Quindi anche nella comunicazione, se tu vuoi comunicare con me ma io non voglio... Desidero chiederti il consenso. Ma io devo desiderarlo, quindi devi fare in modo che io desideri comunicare con te, altrimenti no, la regola è tutto quello che non mi aiuta mi rompe l'animo. È un grazie. Po' come tutto quello che non ammazza ingrassa, no? È giusto. Così stava sì, diventando un po' troppo così. Interessante, io prendo appunti, grazie. Io intanto vi racconto brevemente chi sono. Ho cominciato con studi e poi professione in pubblicità e poi la mia professione è evoluta, ha avuto una deriva nella direzione delle consulenze e poi della formazione in azienda, dove ho portato all'interno delle tematiche di legate alle risorse umane, all'organizzazione, al marketing, ho portato i temi della creatività, quindi facendo un melting pot, proprio mescolando ad arte, e facendo lo chef e il cameriere di conoscenze. e portandole nelle aziende, dove ho provato a rinnovare alcune forme di cultura organizzativa, cultura aziendale. E com'è andata? Ma direi bene, direi che insomma, il mio curriculum è abbastanza, continua ad andare avanti, quindi la ricetta e le ricette hanno funzionato. Ma dunque se noi volessimo fare un po' di insider trading, tipo la prossima multinazionale in cui tu agirai, quale sarà? Perché così io mi compro qualche azione e sappiamo che decollerà. Allora non si danno le informazioni, non si dice gatto se non è nel sacco. Anche perché appunto è un delitto chiamato insider trading. Sì. Verrò però, a parlarne. No, però, basta che me lo mandi per SMS, cioè non c'è bisogno di esternarlo pubblicamente. Sì, com'è successo con Nancy Pelosi, presente? Ha venduto tutte le azioni di questa azienda, cioè lei aveva tutte le, e il giorno dopo l'azienda è crollata in borsa. Ottimo. A picco proprio. Per cui cioè, ufficialmente non ha fatto nulla di illegale, ma non ufficialmente diciamo che sapeva qualcosa che gli altri non sapevano. E questi saperi io poi li riverso nella mia attività di docenza in Accademia di Belle Arti, dove insegno appunto tecniche di comunicazione declinate in corsi dove la creatività la fa da padrona. La creatività che non è solo espressiva in termini di comunicazione visiva o arti visive, ma un bravo artista, un bravo designer, sono le due figure principali, no? che escono fuori dalle Accademie di Belle Arti, insieme a, ovviamente a figure di comunicatori di didattica dell'arte e di restauratori. Ma ogni professionista ha bisogno di comunicare se stesso, e quindi comunicare se stesso e non significa solo fare del buon public speaking e business public speaking, ma anche riuscire a raccontare le proprie idee. Personal branding. Personal branding, tutti questi termini, riappropriamoci un po' di cultura umanistica e lasciamo perdere un po' gli americani, che loro stanno lasciando perdere noi. Okay. Noi lasciamo perdere loro. Personal branding in italiano, come in si italiano la diciamo? Ma intanto posizionamento professionale, cioè posizioniamoci e poi costruiamo la nostra reputazione. Non la chiamiamo brand reputation, chiamiamola proprio reputazione, così come forse anche basta creatività, rimpossessiamoci della fantasia, rimpossessiamoci delle parole che fino a un po' di tempo fa non esistevano. Si parlava di fantasia, di immaginazione, poi a un certo punto è venuta fuori la creatività, ma viene da creare, è un verbo da presuntuosi, diciamocelo, cioè, almeno che uno sia credente o no. Scusate, ecco, vedi quando si parla del creatore che succede? Vedi a non credere, Stefano W. Pasquini. Sei la prima persona con il W tra il nome e il cognome che conosca a parte Bush. A parte Bush? Sì. Hai conosciuto Bush? No, okay. Però ne ho sentito parlare. Sì. L'ho letto. Stavo per dire prima team building anche nelle aziende, poi ho pensato no, parliamo in italiano, mi sono fermata. Team building sempre in maniera fatta in maniera come umanisticamente corretta, no? Esempio, normalmente si fa i team building a volte sono terribili, prendono delle persone dalle aziende, le portano campi da tennis, a fare rafting, attività sportive. Poi arriva, è successo anche a me una volta. Arriva un trainer e ti dice: vedi, hai tante risorse dentro di te, tirale fuori quando sei al lavoro, perché tu ce la puoi fare. Ed è la volta in cui gli vomiti in faccia perché hai bevuto quattro. Esperienza casi, vissuta, Stefano. Com'è andata? Molto bene, hanno chiamato l'ambulanza. Ottimo. Sì. Vedi, buongiorno. Vorrei correre così velocemente che nessuno possa prendermi, perché così rimarrò da solo nei miei pensieri e nei miei libri più belli che posso scrivere. Buongiorno da Marco Roma. Ma quindi possiamo qua dire che Marco Roma è di nuovo innamorato? Cioè, di solito funziona così: si innamora, si mette insieme alla ragazza, sono felicissimi, lei lo molla e dopo lui è disperato e poi di nuovo riparte la primavera ed è un ciclo continuo. Noi abbiamo storyline orizzontali per Marco Roma in ogni puntata. Esatto, no, è fantastico. Ma Marco Roma, devi tantissimo sapere, Fabiano, che è questo... è questo nostro ascoltatore che tutti i giorni lascia un messaggio cantato a Radio Città Fujiko. Però posso farlo anch'io lasciando dei messaggi con al 333 180 94 94. Bene. Cioè, al quarto messaggio io ti salverò come Fabiano che lascia i messaggi cantati, sì, o suonati. O suonati, puoi farlo, certo, anche adesso, perché in effetti tu suonati... suoni, giusto? Nella mia vita suona privata, sì, suono sax tenore. Suono il sax tenore. Ah, vedi, sì. Qualcuno qua ha studiato. Vedi? Qualcuno si è informato. Qualcuno sì si è informato. Sì. Dici di più anche di questo. Beh, mi piace molto il cinema degli anni 50 e 60. E, mi piace da matti un regista che si chiama Billy Wilder. Adoro un film. Billy Wilder è un regista che riesce a parlare di temi molto delicati come, non so, la violenza sulle donne, la prostituzione, Irma la Dolce, gli abusi sul lavoro, l'appartamento, oppure il matrimonio gay. Cioè, negli anni 50 parlava di travestitismo, matrimonio gay, mafia, violenza, e in questo film che si intitola A qualcuno piace caldo, sì, c'è una battuta che mi ha un po' così colpito, perché c'è Marilyn Monroe che dice: io non posso suonare nelle orchestre miste di uomini e donne, perché se un sassofonista tenore mi suona le prime 8 battute di My Melancholy Baby, io non capisco più niente e cado ai suoi piedi. Ed è per questo che io suono il sax tenore. E la prima cosa che hai imparato a suonare era quella My Melancholy Baby. Sebbene insomma Marilyn Monroe sia scomparsa 2 anni prima che io nascessi, e quindi niente, non però io così, senza speranza, continuo a studiare My Melancholy Baby, le prime 8 battute, solo quelle. Qualcuno so è mai solo crollata ai piedi? No, ma non, è solo per Marilyn Monroe, per lei, no, giusto? È una dedica, sì, assolutamente, è una dedica che le fai. Assolutamente, hai capito. Wow. Ci stava bene un pezzo, ma non ho messo dei My Melancholy Baby, non ce l'hai nella playlist? No, non ce l'ho. Splunky. No, c'ho questo però. Basin Street Blues. Sei tu, sì, resto calma, forse sarai. Fabiano, ma cosa ne pensi di sto pezzo? Bello. Si chiama Echo di Joan Thiele, quella che ha partecipato Thiele. A Thiele, scusa. Grazie. Vabbè, io non l'ho guardato Sanremo quest'anno. No, perché mi dicono che tu hai, cioè mi dicono dalla regia che tu hai scritto un'enciclopedia di musica, hai partecipato a un'enciclopedia di musica. Beh, è un'enciclopedia che aggiorniamo ogni anno oramai da più di 10 anni, abbiamo scavallato i 10 anni, l'enciclopedia è il Salvatori, perché è nata da un'idea di Dario Salvatori e dal lavoro in The Fest di Dario Salvatori, dove io ho dato alcuni contributi sulla musica degli anni 20, 30, 40, 50 e un po' di 60. Ed è un volume molto interessante, perché in poche righe, 10, 15, 20, al massimo 30, se è un gran pezzo, racconta l'essenza della canzone. Ma credo che ne parleremo tre minuti. Minuti? Dopo la pubblicità. Così? Da io vado avanti, dammi no, tu. No, perfetto. Spaziale. Ed è finita anche la pubblicità. Un goccio di acqua, dove lo trovi? Dove la troviamo un goccio di acqua? Sì. Mi chiedeva il nostro carissimo Fabiano. Dove troviamo dell'acqua? Non c'è dell'acqua. No, ritorniamo alla nostra città. Piove? Sì, no, infatti. Puoi non trovare dell'acqua. In effetti piove. Andata. Ci vuole solo un coso. Dove eravamo rimasti? Al Salvatori. Eravamo al Salvatori, alle canzoni, alla storia della canzone. Giusto. Infatti. Con tutto quello poi che ne consegue, con tutto quello che c'è attorno. Per esempio, mi piacciono molto i nomi, l'analisi dei nomi, ma questo perché anche l'attività di creativo ha proprio una disciplina, che è quella del naming. Come dare nomi alle cose, si fa in maniera tecnica, si fa in maniera scientifica. Certo. Poi io mi diletto, per esempio, nel creare anagrammi, cercare anagrammi. Del resto, qual è l'anagramma del tuo nome? Del cognome Preticone, e infatti che lavoro faccio? Io è il predicatore. Vivo parlando, quindi è proprio. Però invece nome e cognome è un altro anagramma, che è Beato, in pace, Ronfi. Sì, che descrive però completamente la mia così indole un po' così pigra, ma anche l'approccio emotivo che ho nei confronti delle cose, il distacco che ho nei confronti delle cose del mondo. Quindi ecco, gli anagrammi, poi nomen omen dicevano gli antichi romani, e quindi nel nome c'è il destino delle persone. Quindi Stefano W. Pasquini, fra un po' facciamo l'anagramma. Sì, proverò a produrmi in un anagramma del tuo nome e cognome. Ma per esempio, sempre di nomi, una cosa che mi ha sempre affascinato è questo fenomeno che c'è stato negli anni 60, proprio tornando a parlare di canzoni e di musica di quegli anni. Mm-hmm. Quello fu un periodo particolare, perché mentre adesso noi abbiamo i giovani che macinano continuamente giovani su giovani, cioè non c'è più una generazione di artisti in musica che tiene, salvo pochissime eccezioni. E invece c'è stato questo periodo degli anni 60 in cui si è affermata una generazione che poi è stata completamente rottamata dai loro coetanei. Cioè c'è stata negli anni 60, forse anche i giovani d'oggi magari non sanno riferirlo temporalmente, perché ogni tanto guardo nelle playlist dei ragazzi di 20 anni, i ragazzi di 20 anni mettono dentro cose degli anni 50, 60, mettono insieme Beatles, musica contemporanea, un pezzo classico, un pezzo di rock degli anni 70, E questo è un fenomeno molto particolare. Dire qual è la musica di adesso è molto difficile, certo. No? Invece ci sono periodi molto definiti, no? Gli anni 50, il rock and roll, e poi arriva il beat negli anni 60, e poi arriva il rock progressive negli anni 70, e poi purtroppo sono arrivati gli anni 80. No. Ma beh, in mezzo c'è stato anche il punk, che insomma. Sì. Però prima c'è stato, ci sono stati i Beatles che hanno erano super punk, ma hanno sbocconcellato tutti i generi. I Beatles li hanno sperimentati tutti, quindi tutto quello che c'è stato dopo è stato variazioni sui temi sperimentati dai Beatles. Ma i Beatles hanno sperimentato quasi qualunque cosa, o pressoché qualunque cosa. Non c'è quasi nulla che i Beatles non abbiano in qualche modo praticato, magari anche solo con un brano, però hanno sbocconcellato tutto. L'angolo della menzione. Non ti interrompo per questa cosa. Oggi abbiamo pochissime menzioni questa settimana e ne abbiamo solo tre, per cui una per me, una per Cinzia e una per Lisa. Chi parte con quale? Tu, naturalmente. Io parto con mercoledì 19 marzo alle ore 15. La curatrice storica dell'arte Lucia Pesapane presenta La curatela come strumento per la parità di genere. Il lavoro di curatela, infatti, mi è venuto il dubbio mentre lo dicevo, è di scrittura, è uno degli strumenti per promuovere e sostenere la carriera e l'attività di molti artisti. In questa storica in quanto storica dell'arte, il mio campo di indagine è l'applicazione degli studi di genere alla storia dell'arte dalla fine del XIX secolo ad oggi. Aula Magna, Accademia di Belle Arti, via Belle Arti 54, Bologna. E poi tutto il link che... Ecco, io vorrei dire, ma mi è venuto in mente che vedete come nella comunicazione, quando uno parla di comunicazione, parla è appena accaduta una cosa molto divertente, che lo stesso messaggio, se cambi l'intonazione della voce, cambia di significato. Provo a rileggervi l'inizio del messaggio. Vai. Mercoledì 19 marzo, ore 15, Accademia di Belle Arti, la curatela. Perché sai, la curatela diventa la curatela. È bellissimo. L'arte di Lucia Pesapane, poverina, capito? Cioè, basta che cambi di poco e tutto, no? La curatela come strumento per la parità di genere. La curatela, capito? Cioè, diventa una cosa curiosa, perché cambi intonazione e cambia il significato. E questa è una cosa molto studiata comunque, perché proprio le parti di metacomunicazione, le parti con cui, con la voce assegni, è con la voce che assegni il significato a quello che dici. Non è, il significato non è assoluto nel testo e nella parte testuale. Quando la pronunci, la configuri. Terminato il tempo, qua si stava dilungando troppo sugli accenti. Vai tu? Vado io. Allora, si ricorda che venerdì 21 marzo dalle ore 18:30 Disco Lobotomy apre il cinema con The Punk Rock Movie, a seguire Tullo e i Rebel Hot Live. Poi ci sarà un DJ set by Mars. Perché è tutto così in inglese? Tutto così, no? Sintetico, non c'è un minimo di anima in questa menzione. Ho imparato una parola nuova. Però, no, volevo dire una cosa, che volevo portare un pezzo di Tullo e Rebel Hot, che ti so, cioè, alle volte suono, ma certo, stasera non ce l'ho. Però fammi dire almeno dove, esatto. Aspetta. Dove siamo? Sixteen, via Nazario Sauro, 16, Bologna, ripeto, venerdì 21 marzo dalle 18:30. Invece, sempre venerdì 21 marzo, dalle ore 21, il 5C Lab di Vicolo De Facchini 5C a Bologna si trasforma in crocevia di suono, immagine e metamorfosi con Chrysalis di PSO, Project Secret Opening. Open, un'esperienza artistica immersiva che intreccia la dimensione visiva e sonora per raccontare la trasformazione, la fragilità e la resistenza dell'esistenza. Tutto questo è venerdì alle 21 a 5C Lab in vicolo De Facchini 5C a Bologna. Abbiamo una questione sul naming qui. Oh, a proposito molto di bene. Apericinema. Apericinema. Cioè. Polemica ecco. Su Apericinema. Fabiano, prego. Prego. No, io in effetti. Vai. Parole sprecate. No, lasciamo perdere. Andiamo avanti, dritti. È già finita così. Apericinema. Sì, sì, sì. No. È bastato. Ah, non ti è piaciuto proprio Apericinema. Apericinema è pesante, eh? Vabbè, ma no, perché Apericena è meglio. E per il pranzo? No, ma io ho sentito Aperimessa. Che cosa? Aperimessa. Amen. L'aperimessa di sabato pomeriggio. Ci sono alcune chiese che fanno l'aperimessa. Non è la rimessa della no. Sono dei geni. Sono dei geni. Dei geni del male. Sono dei geni, è come lo spritz in sacchetto durante il Covid in Veneto. Vedi. In sacchetto, okay. Non è arrivato fin qua. No. In Veneto c'era lo spritz in sacchetto. Ok. Ecco. Sì. Vabbè, dicevamo. Creatività generica. Ecco. Questo è Riccardo Lolli, lo conosci Riccardo Lolli? No. Non conosci Riccardo Lolli? Dovresti conoscere Riccardo Lolli perché è un tipo che fa sti jingle qua ed è anche un ottimo musicista e al giovedì notte, a mezzanotte, fa questa trasmissione di musica chiamata Uova, Soda e Noci. La potete sentire. Bellissimo. Sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Sì, giovedì a mezzanotte. Dunque, dicevamo anagrammi. Cinzia, anagrammi. Non ho fatto l'anagramma del tuo nome. Infatti. Ops. Inizio. No, ma è difficile perché ci vuole. Non è detto. L'anagrammatore. L'anagrammofono. Ah sì, tu lo fai. Ci provo. Io vado mischio. Vai. Allora, okay. Stefano. Allora noi intanto chiediamo a Fabiano. Quali sono i tuoi progetti futuri? Visto che hai scritto un sacco di libri, mi chiedevo se ne stessi scrivendo ancora o semplicemente ti rilassi venendo in radio da noi. Ma ho sempre la doppia vita, quella accademica e quella di ricerca e poi quella diciamo che mi fa apprezzare ancora di più sfumature della poesia che c'è nella vita. E quindi la parte seria, sto avviando un progetto di scrittura sul design relazionale, cioè quella parte del design che serve a tenere insieme le persone. Nell'ultima esposizione di lavori dell'Accademia delle Belle Arti ho presentato con gli studenti un lavoro a cui ho dato titolo molto semplice: siediti e parliamo. Perché questo titolo? Perché con la digitalizzazione delle comunicazioni si sta perdendo l'abitudine di sedersi e parlarsi in maniera, come dice un sociologo, biotica. Mm-hmm. L'incontro biotico, no? Il contrario di digitale. Ah, vedi, biotico è il contrario biotico. Di digitale. Quindi perché noi... di solito si usa analogico al contrario di digitale, invece biotico. Biotico perché siamo biologicamente uno biotici. Di fronte all'altro. Ah, no, okay. Quindi abbiamo un incontro biotico. Mm. Ecco, questo è l'obiettivo. Cerchiamo di incontrarci e di avere proprio incontri. Cioè, c'era un'altra frase che girava sui social che forse lo sintetizza meglio di un nome così astruso, una frase su un muro di Roma che è: basta Facebook, virgola, menamose. Ah sì. Cioè, ecco, era un po'. In effetti su Facebook cosa facciamo normalmente? Semenamo. Sì, ma il concetto è un po' quello, no? Cioè un design in grado di far avvicinare le persone, quindi finirla con questa virtualizzazione e digitalizzazione estrema anche nelle relazioni. Cioè c'è persino il texting. Il che per uno della Prima Repubblica e novecentesco come me è una cosa così di difficile digestione. Però insomma io l'ho letto. Tu mi dici che non hai mai fatto texting? È come un Miami, ma quanto Miami delle pubblicità allora, di tempo fa. Io devo dire che a queste domande non rispondo per eleganza istituzionale, però forse dai toni della voce si può intuire qual è la risposta e qual è la preferenza, se verso il texting o verso la comunicazione biotica. Non so. No, io vedo Cinzia che sta prendendo un sacco di appunti e mi chiedo che no, in realtà cosa sto sarà. Facendo l'anagramma, mi sto impegnando un sacco per provare a fare. C'era un distopia da qualche parte nell'anagramma del tuo nome, però poi tutto il resto è tutto il resto è noia, naturalmente. No, ho detto gioia. Hey boy, let me go. Hey girl, here we go. Hey boy, let me go. Hey girl, here we go. I dated boys, I dated girls, and in the end it's all the same. They eat my soul, suck my blood, inject themselves with some of it. I dated girls, I dated boys, I swim both ways to run away. It's all possessive, I'm undressing for the doctor saying welcome to my heart. Some pills off the shelf. They make me happy, but I feel like it's not real. I miss my moods and babes and dudes, and I just wanna feel. Welcome to my heart. No, perché partire con un no perché mi dicono che sia sbagliato. No, ma io ho degli anagrammi simpatici. Ah, vedi? No, io invece, aspetta, prima di fare gli anagrammi simpatici, io invece ho una menzione in più perché me la... No, perché me la sono dimenticata. Ovvero il finissage della mostra Re-Undressed. Mostra fotografica di Luca Maria Castelli. Dove? Alla centrale Reuse with Love in Viale Gozzadini 10 a Bologna, e il finissage è il 21 marzo, ovvero sabato, giusto? 21 venerdì. Ah beh sì, perché è tutto venerdì. Perché il 22 è sabato. Molto bene. E alle 18:30. Okay. E questa mostra, se non vado errato, è a cura della Simona Pinelli, che adesso che noi naturalmente salutiamo. Ciao Simona. Oddio, perché tu sei spenta? Non lo so. Ah, sei spenta, è vero. Ti avevo spento, non so perché. Stefano, ho due opzioni. Hai due opzioni. Una con Walter e una senza. Ok, andiamo con quella con Walter prima. Quel sforni spiantavate. Ah, sti gran... Sì. Cox. Ma l'altra senza Walter dice Nanfa equo stipsi. Ops. Bello. Cioè, insomma, sempre di merda si parla. Certo. Oppure un'altra che invece parla di digitale, a proposito del discorso che facciamo sul digitale, afona questi spin. Ah, ecco. Afona questi spin. Mi piace già di più. Ti piace? Questi spin. Adesso bene. Vado a prendere due vinili e faccio degli spin afoni. Wow. Spasa qui nei Pinot, vabbè basta, andiamo avanti. Ok, molto bene. Abbiamo belli, ben tipo 3 minuti e 47 secondi per sentire se per caso il nostro caro ospite Fabiano Petricone, esperto di comunicazione, ha qualcosa da comunicarci, oltre a tutto quello che ci ha già comunicato. Ma sì, Guarda, il messaggio che vorrei dare, ecco, è a recuperare una forma di comunicazione che prima di tutto sia veramente, prima come dicevamo, no, occorrono due desideri, ma la comunicazione ha un'estetica e rimpossessarsi dell'estetica della comunicazione significa, per esempio, imparare più parole, usare più parole, avere una forma. Prima di tutto bisogna conoscerle queste più parole, no? Per conoscere, per cercare più parole, bisogna ingegnarsi, perché prima di tutto bisogna desiderare una migliore capacità di comunicazione. Sai che più parole conosco, più sono in grado di descrivere le mie idee, altrimenti rischio di andare in frustrazione. Certo. Perché per esempio provo qualcosa e non so come si chiama. Cavoli, giusto. Sì. Faccio ogni tanto, faccio questa cosa quando mi trovo davanti a un gruppo di persone, chiedo: scrivetemi tutte le emozioni che siete in grado di provare e di descrivere con una parola. Certo. Separando, no, descrivendo, qual è il concetto di emozione? Amore è un sentimento, è lungo nel tempo, non è un'emozione. Emozione è breve nel tempo. Sono le farfalle nello stomaco. Le farfalle nello stomaco. Okay. Quella è un'emozione. Breve. No. No. Però. No. Batticuore. Altro argomento. Altro argomento. Batticuore. Ecco. Bacchetto alle mani, però. Sai che molte persone non vanno. D'accordo. Non superano le otto emozioni. Descrivono otto stati emozioni. D'animo. Wow. Qualcuno. Io secondo me non ho neanche quelle otto, io arrivo a quattro forse. Oltre l'amore? Dai, facciamo cinque. No, l'amore è un sentimento. L'amore è un sentimento. Non vale. Però. Quante emozioni hai, Cinzia? Cinzia, raccontaci le tue emozioni. In questo preciso momento. Abbiamo poco tempo, però. Poco tempo. Ecco, e questo per dire. No, però conoscere. Possiamo fare pubblicità al suo Spotify blog. Questo? Ah, certo. Quello. Il libro? Addirittura hai fatto il libro. Sì. Lo confesso, sono diventata Choosy. Questa è la versione cartacea del podcast. Del podcast. Che volevo regalarti, tra l'altro. E l'avevo portata così a sorpresa, ma poi è venuta fuori ora. Ah, hai visto? La devi firmare poi. Assolutamente sì. Bene, perché Cinzia ci ha appena tirato fuori un libro molto bello su una bella carta. Che si intitola Lo confesso, sono diventata Choosy, di Cinzia Corda, e dove c'è anche un bellissimo QR code che rimanda al suo podcast. E ecco, io adesso la intervisto, così ci racconta. Ah, okay. Allora, è diventata. Dici tre motivi per ascoltare il tuo podcast. Lui è per immedesimarsi subito... se si è vissuta la stessa storia. E qual è la stessa storia? Se non la conosco, lo dovrei sapere prima. Certo, cioè, è la storia di una persona che ha lavorato nel settore della ristorazione in un luogo dove si lavora prettamente nel settore turistico e dove principalmente si viene trattati poco bene da chi paga, dagli imprenditori. Quindi non è stato un caso isolato, io lavoravo e stavo molto male in quella situazione, lavoravo tante ore e non avevo più dei turni di lavoro, non avevo i giorni di riposo, non avevo quasi nulla, non avevo la mia vita. Quindi ho capito che non era soltanto la mia storia, quando ne sono uscita ho capito di poterne uscire, ho capito che si poteva fare, mentre stavo lì dentro non credevo sarebbe stato fattibile. Mi hanno aiutato dei consigli, delle persone, sindacati, tante, e volevo raccontare una storia a lieto fine a persone che forse ancora non la vivono, ancora con quella, non hanno quella speranza. È una bellissima cosa. Eri una stagionale o fissa? No, fissa, assolutamente fissa, e per questo ero condannata a morte. Questa è una bella storia che ci racconti, perché grazie a voi di avermi ascoltata. No, veramente. Ma ti ascolteremo ancora, visto che sei co No, stavo pensando che anche noi siamo, io e te, Fabiano, siamo condannati a morte dentro all'Accademia di Belle Arti di Bologna, che però è una condanna dolce, no? deve piacerti anche quello che stai facendo. In alcuni casi si rinuncia a qualcosa per avere qualcos'altro, perché un docente di un'accademia di belle arti da una parte tramanda dei saperi che sono stati stratificati in secoli in alcuni casi, dall'altra parte assicura un briciolo di verità, di felicità, non solo alle persone ma al mondo. Perché io penso, io faccio questo mestiere perché cerco di essere il professore che non ho avuto quando sono stato molto giovane, e per farlo penso di virare il mondo, virare, proprio inserire dei virus nel mondo che sono gli studenti che hanno a che fare con me e con i miei colleghi, cioè delle persone che poi riescano a portare nuove idee, nuova creatività, nuove visioni del mondo, perché il mondo ha bisogno. Voglio contaminare il mondo, è una cosa difficilissima. So che è una cosa molto ambiziosa da dire, però io la voglio dire, perché le ambizioni non vanno, alle ambizioni non bisogna rinunciare perché è difficile, no? La conseguirle. E quindi io, nonostante la mia veneranda età, ancora provo a cambiare il mondo, sia in prima persona, sia dicendo alle persone cambiamo, diffondendo un po' questo. Sì. La formazione è la strada per farlo. La formazione, sì. L'insegnamento, la crescita è una delle strade per farlo. L'altra è quella della musica, ad armi impari, perché abbiamo proprio abbiamo l'ambiente musicale contaminato completamente dal business. E quindi abbiamo solo della roba che non lascerà traccia nella storia e che ahimè proprio ruba bellezza. La musica che sento in giro ruba bellezza, ruba poesia, azzera la poesia, e questa è una cosa che insomma un po' mi dispiace. Cioè, abbiamo avuto una generazione di persone, quella forse dei vostri nonni, se non bisnonni, che era in grado, seppur con pochissima alfabetizzazione, forse nessuna alfabetizzazione, cioè erano a volte analfabeti, però conoscevano le arie d'opera, sapevano cantarti un di felice eterea mi balenaste innante, da quel di tremante vissi d'ignoto amor. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. No, ti ringraziamo tantissimo Fabrizio, Fabiano Petricone. Però no, ti volevo dire che, perché non hai ancora sentito sto pezzo che è incredibile. Incredibile. Di questo Pietro. È il pezzo Speciale Dolore che salutiamo. Che salutiamo e si intitola Sta facendo Vomito. Un tour. Ah, Vomito. Certo. Okay. Vomito. Ringraziamo. Si chiama Vomito. Anche siamo partiti col Vomito. Anche Cinzia Corda, che per oggi ci ha fatto da conduttrice, Lisa Mignemi e Keia Oli, che ci ha fatto le foto, e naturalmente Fabiano che ci ha insegnato come comunicare, come si vive comunicando senza possibilmente farsi venire il vomito. Certo. E quali sono gli accenti e l'intonazione? Prenoto il dermatologo, vado dallo psicologo, e poi mi viene il vomito. Neurologo, prenoto il dermatologo, e poi mi viene